268. Pollo alla Marengo. La sera della battaglia di Marengo, nel sottosopra di quella giornata, non trovandosi i carri della cucina, il cuoco al primo console e ai generali improvvisò con galline rubate un piatto che, manipolato all'incirca come quello che qui vi descrivo, fu chiamato pollo alla Marengo, e si dice che esso fu poi sempre nelle grazie di Napoleone, se non per merito suo, ma perché gli rammentava quella gloriosa vittoria. Prendete un pollo giovane, escludendone il collo e le zampe, tagliatelo a pezzi grossi nelle giunture. Mettetelo alla sauté con 30 grammi di burro, una cucchiaiata d'olio e conditelo con sale, pepe e una presa di noce moscata. Rosolati che siano i pezzi, da una parte e dall'altra, scolate via l'unto e gettate nella sauté una cucchiaiata rasa di farina e 1 dl di vino bianco. Aggiungete brodo per tirare il pollo a cottura, coperto e a fuoco lento. Prima di levarlo dal fuoco, fioritelo con 1 pizzico di prezzemolo tritato e quando è nel vassoio, strizzategli sopra 0,5 limone. Riesce una vivanda appetitosa.